Le ribadisco la posizione del Partito Democratico, cioè quella di esentare attraverso meccanismi di detrazioni il pagamento dell'IMU sulla prima casa alle fasce più basse, a coloro che non possono permettersi di pagare l'IMU sulla prima casa. Ribadisco che il governo precedente ha esentato me, e non ne avevo bisogno, come una parte di italiani, probabilmente anche lei, dal pagamento dell'ICI per 3 anni. Quel mancato gettito è evidente che io, come tutti gli italiani che hanno avuto quell'esenzione, lo stiamo pagando ora con un IMU che vale il doppio di quello che valeva l'ICI nel 2008, nel 2009 e nel 2010. Se non diciamo questo non si capisce di che cosa stiamo parlando. Noi non abbiamo fatto una proposta come quella che descrive Panorama. Noi stiamo lavorando su meccanismi che faranno pagare l'IMU sulla prima casa solo alla cosiddetta fascia più alta, e vorremmo esentare, ovviamente i sindaci avranno l'autonomia di esentare una serie di aree, di quartieri in funzione del peso di quel quartiere sul bilancio dell'ente. Ma quindi l'idea sarebbe di collegarla al reddito anche, Boccia, o no? Perché poi là ci sono... Innanzitutto, guardi, si parte dal valore e quindi si esentano i valori fino al 1.200.000 e poi si collega al reddito, perché può anche esserci un caso su 10 simile a quello a cui fa riferimento lei, di qualcuno che ha ereditato la casa ma non ha reddito e non è in condizione di andare avanti. Ma se mi permette, è una condizione speciale quella, non è la condizione ordinaria.